8894. Come è successo ieri, molti ascoltatori, quando abbiamo dato il numero verde, mi chiamano e mi dicono: è occupato, non rispondono. È un po' preso d'assalto, perché siamo alla terza edizione, professor Miccoli. Anche le edizioni precedenti hanno avuto grande successo, per cui i posti non disponibili, insomma, i posti sono andati abbastanza a ruba, quindi grande successo. Possiamo dire agli ascoltatori di provare a chiamare, e se non riescono a farsi controllare gratuitamente in questa settimana la tiroide, di stare attenti ai sintomi e alla trasmissione di oggi. Parleremo anche di noduli, parleremo di tiroiditi, perché insomma la ghiandola è importante e va tenuta sotto controllo. Professor Miccoli, è d'accordo? Certo, Nicoletta. Io innanzitutto mi dispiaccio se questa specie di ingorgo da parte dei pazienti, che però testimonia dell'enorme interesse che c'è nella popolazione per queste malattie, e quindi diciamo testimonia anche di un primo successo raggiunto da questa iniziativa, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Tra l'altro anche le visite, purtroppo, anche se nel mio centro soltanto ne faremo oltre 100, però purtroppo sono limitate dagli impegni che gli professionisti hanno. Io vorrei invitare tutti questi ascoltatori che hanno qualche difficoltà a prenotare la visita gratuita a fare riferimento ugualmente agli ospedali e alle sezioni specialistiche di endocrinologia o di chirurgia, perché poi in fondo con il semplice pagamento del ticket possono comunque adire il sistema sanitario nazionale e farsi visitare, perché è una forma di controllo che noi riteniamo molto importante. Nello stesso tempo però anche una forma di tranquillizzazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Solo rarissime di queste malattie andranno dal chirurgo, avranno bisogno di terapie importanti. Quindi perché rinunciare a questa possibilità? Intanto, se volete parlare con i nostri esperti, con il professor Pinchera e il professor Miccoli, abbiamo il nostro numero verde che è sempre attivo, 824 0024. Cercheremo oggi di affrontare le patologie tiroidea a 360 gradi per fare informazione, soprattutto senza allarmi. Possiamo occuparcene, ci sono delle, la tiroide insomma si rimette a funzionare brillantemente. L'importante è arrivare ad una diagnosi precoce. I messaggi 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso andiamo a sentire i nuovi dati del rapporto Osserva Salute, che è giunto alla sua settima edizione. Il rapporto, come sapete, è una sorta, direi, di pagella ragionata. È infatti un'analisi approfondita dello stato di salute degli italiani e della qualità dell'assistenza sanitaria nelle regioni. Siamo in linea con il professor Walter Ricciardi, che è direttore dell'Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia all'Università Cattolica del Sacro Cuore, che coordinatore del rapporto. Buongiorno professore, bentornato. Grazie, buongiorno. Professor Ricciardi, allora qual è la novità di quest'anno? La novità di quest'anno è che la crisi economica e finanziaria si riflette anche su un peggioramento della salute, perché gli italiani sono costretti in qualche modo a rinunciare a delle cose che fanno bene, come alimenti buoni, frutta, ortaggi, a fare sport perché la palestra costano, e quest'anno abbiamo scoperto che gli italiani devono rinunciare anche alla salute dei propri denti, perché il 90% delle prestazioni odontoiatriche sono private, e quindi si fa un po' di risparmio anche sui denti. Insomma, professor Ricciardi, la crisi morde la salute, ma io andrei anche alle buone notizie. La salute degli italiani ha avuto qualche miglioramento rispetto alle precedenti edizioni? Ma diciamo che la salute degli italiani si mantiene buona, però non migliora come potrebbe, in particolar modo non migliora per le donne, perché è il terzo anno consecutivo che l'aspettativa di vita delle donne italiane non cresce, e quindi questo comincia a diventare un fatto un po' preoccupante. Mentre i maschi aumentano la propria aspettativa di vita, le donne no. Stiamo parlando di valori molto alti, le donne italiane sono tra le più vecchie al mondo, diciamo hanno un'aspettativa di vita tra le più alte al mondo, però sicuramente è un fenomeno da monitorare. Adesso facciamo un giro per l'Italia, professor Ricciardi. Se le chiedessi di accompagnarmi nella regione più in gamba, dove mi porterebbe? Ma il Veneto e il Piemonte sono sicuramente le regioni in cui si fa più sport, si fa più attività sportiva e stracciano tutte le altre regioni. E se invece scegliessimo di andare nella regione più attenta alla prevenzione, dove dovremmo dirigerci?

sono stati superati in buona parte proprio grazie alle diagnosi precoci, perché noi con queste ecografie riusciamo a vedere dei noduli, quindi eventualmente dei tumori da operare, che sono ancora molto piccoli, e lì è veramente l'indicazione fondamentale per la chirurgia minimamente invasiva, che poi è una chirurgia videoassistita, sostanzialmente una chirurgia endoscopica che si vale degli stessi strumenti che poi usiamo nell'addome, che usiamo nel retroperitoneo e in tanti altri distretti, il cui successo effettivamente è testimoniato da quanto questa metodica si è poi diffusa nel mondo. Per quello che riguarda la voce, ora, dire che la chirurgia tiroidea ha eliminato tutte le complicanze non è nemmeno, non è corretto, perché indubbiamente non esiste chirurgia che non abbia un suo tasso di complicanze, però devo dire che negli ultimi 20 anni queste percentuali di incidenza di lesioni nervo-ricorrente si sono ridotte drasticamente. Drasticamente, io oggi le collocherei intorno a un 1% dei casi, e quindi questo deve essere anche un messaggio rassicurante. Ricordo poi che anche una lesione di una delle due corde vocali con un'opportuna logopedia porta i pazienti ad una fonazione praticamente ineccepibile. Quindi veramente anche sul piano della chirurgia vorrei lanciare un messaggio estremamente rassicurante per la popolazione: se vi è necessità del chirurgo, fatevi operare con serenità, l'intervento sarà un intervento rapido, con una rapida ripresa, un rapido ritorno ai propri familiari, ma anche al proprio lavoro, e con sequele che saranno veramente contenute in numeri minimi, ecco. Professor Pinchera, noi abbiamo aperto questa nostra trasmissione dando i segnali sfumati dell'ipotiroidismo e dell'ipertiroidismo. Molte persone però non riescono a cogliere. Che cosa succede se non viene diagnosticata una tiroide che funziona troppo o troppo poco? Quali sono i possibili rischi? Bene, per quanto riguarda il problema del troppo, e allora non ci sono santi, le manifestazioni più importanti sono quelle del cuore, e il cuore che a un certo punto entra in fibrillazione, si altera nel suo ritmo e quindi funziona male perché pompa poco. E poi c'è tutto il problema che riguarda anche l'osso, perché l'osso si depaura di calcio, ma poi soprattutto la persona che è ipertiroidea sta male. Nel momento in cui però viene fatta la diagnosi, la terapia c'è, è una terapia estremamente efficace, senz'altro con gli antitiroidei si blocca la funzione della tiroide e poi si vede. Se è una persona di quelle, dopo un tempo piuttosto prolungato in cui si è fatta questa cura di freno della tiroide, si ha una remissione duratura e allora abbiamo risolto il problema. Oppure se invece c'è la ricaduta, la recidiva, e dovremo adottare una terapia chirurgica oppure quella con l'isotopo radioattivo, il radioiodio, che sono estremamente efficaci. Io devo dire che l'ipertiroidismo, che una volta era una malattia che faceva molto preoccupare, ora è curabile. E mentre per l'ipotiroidismo basta aggiungere quello che manca, professore, più semplice da curare. Ma lei è bravissima. Io devo dire che la terapia dell'ipotiroidismo, ci devo dire, è di quanto più facile ci sia. Nel senso, cioè, che è curata nell'individuare la dose. Però la fortuna dell'ipotiroidismo è che manca la produzione dell'ormone tiroideo. E la fortuna maggiore sta nel fatto che il prodotto sintetico è esattamente uguale a quello che produce la tiroide, e il prodotto sintetico è attivo dandolo per bocca, quindi si tratta di dare delle compresse. Quello che occorre fare ovviamente è individuare la quantità di ormone tiroideo, cioè tiroxina, che deve essere somministrata in rapporto al particolare individuo. È una funzione del peso, è una funzione della struttura dell'organismo, però è una cosa che può essere fatta, anzi, è qualcosa che è gratificata dal fatto che dando questo trattamento la persona torna perfettamente normale. Io non posso citare i nomi, ma ci sono persone che hanno vinto le Olimpiadi, che hanno potuto farlo dopo che hanno preso l'ormone della tiroide. Allora, io vi ringrazio, ringrazio il professor Pinchero e il professor Miccoli che ci hanno dedicato un'ora del loro preziosissimo tempo, ci hanno spiegato bene come funziona la tiroide, ci hanno insegnato a prendercene cura, non sottovalutare i segnali e soprattutto ci hanno rassicurato. Grazie a voi professor Pinchero e a professor Miccoli, grazie a voi che ci avete seguito, appuntamento a domani. Sul sito, sull'home page di Essere Benessere, trovate un'intervista col professor Setacci su una campagna molto bella, si chiama Un Minuto per la Vita, parla dell'aneurisma, andate a sentirla. Grazie a voi, buona giornata.